Il diario di Q. Viterbo, 26 febbraio 1548. Se conosco il vecchio, comincerà dai pesci piccoli, come gli ho suggerito. I librai, gli intermediari, gli stampatori. E se questo non basterà a intimidire i pezzi grossi, i finanziatori dell'operazione, allora saprà pensare qualcosa per toglierli di mezzo. Il vecchio non agisce mai d'impulso, sa aspettare. Anche la morte sembra aspettarlo, sembra che non voglia prenderlo finché non sia riuscito a portare a compimento il suo piano. Gente come Reginald Paul non la togli di mezzo facilmente, e tantomeno famiglie influenti come i Mendesi. Devi escogitare qualcosa di complesso, intaccare degli equilibri consolidati. I ricchi giudei veneziani sono personaggi scaltri, abituati a essere braccati, a pagare per salvarsi, a intessere legami forti con letterati e commercianti per divenire quasi tutt'uno con essi. I Mendesi suscitano un'ammirazione obbligata, e soprattutto le donne, queste donne che hanno dovuto apprendere l'arte della trattativa e del sotterfugio, gli affari e la politica. Ma mettersi contro Carafa è sempre un errore fatale. Chi meglio di me può dirlo, che lo servo da 30 anni? Intanto, le notizie degli inquisitori veneziani annunciano nuove preoccupazioni in merito alla diffusione del beneficio di Cristo. Sembra che nelle campagne essa stia dando vita a episodi incontrollati. Notizie da Venezia. L'inquisizione veneziana è sulle tracce di un francescano, conosciuto col nome di Frate Pioppo, attivo nel Polesine. Molti contadini di quelle parti hanno rivelato in confessione di essere stati da lui battezzati nella nuova fede del beneficio di Gesù Cristo. Dall'altra parte del Po, una famiglia di pescatori si è rifiutata di far battezzare il proprio figlio, che ancora non può comprendere il mistero di Gesù Cristo sopra la croce. Non hanno menzionato in alcun modo Frate Pioppo. A Bassano, una donna ha chiesto asilo in un convento di suore, poiché il marito l'ha picchiata per convincerla a farsi ribattezzare. In casa dell'uomo è stata trovata una copia del beneficio di Cristo. La rozza religiosità popolare riesce a dare vita alle più assurde miscele. Idee forti nelle mani di menti semplici. Da dove è stata attinta l'idea di ribattezzare gli adulti? Non certo dalla materia del libello eretico. Reperire ulteriori notizie. Parlarne a Carafa? 27 febbraio 1548. Perché il vecchio non ha ancora usato il beneficio di Cristo come arma contro Paul e gli spirituali? Perché non ha ancora sconfessato gli avversari? Gli basterebbe poco. Sul libro pende la scomunica del concilio. Al vecchio sarebbe sufficiente incarcerare Fra Benedetto da Mantova e fargli fare i nomi dei suoi tutori, di chi ha preso in consegna il testo e l'ha redatto e stampato. È probabile che Carafa tema di bruciare le proprie carte troppo presto. Sta ancora aspettando. Ma cosa? Paolo III non ne avrà ancora per molto e l'inglese potrebbe diventare papa, con grande gioia dell'imperatore, che vedrebbe intraprendere una riconciliazione con i protestanti. Forse è proprio questo che il vecchio aspetta con pazienza, il colpo letale, stoccato all'ultimo momento. Ma quanto crede di poter vivere ancora?